può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Affanculo, fanculo, perché sento che il divertimento che spinge all'eccesso non placa il mio digiuno. Forse conviene andare sul sicuro, a pizzare un puretto così non penso a fare il puro. Fuori di testa, fuori di casa, e nella resta, in testa la rasa. Prende il volo da sole e mi confido con la strada. Fammi pensare, ridurre il divario commerciale. Va tutta puttane come ogni parlamentare. Io non penso ma rifletto, tengo tutto dentro e letto ciò che ho detto. Sono sotto effetto, come ti sento sapendo che adesso non ti rispetto, man. Capiresti che il concetto che esprimo su un testo ed ogni mio gesto è solo frutto dell'affetto che affetto. E non sto provando, man. Fammi ribadire che ste rime servono solamente a farvi capire che non ho più nulla da dire. Da dire, dobbiamo pattuire, man. E sta gente non pensa a niente, la testa mi strega. Ma io sono un bastardo, la mela e la tua donna Eva. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Esco da ste casse con troppa denuncia, mi tremano le labbra, non mi viene la pronuncia. Sta merda di stato, quanta merda ci ha buttato. Il parlamento infame con le tasse ci ha mangiato. Infami ingravattati ci han ridotto malfamati. Lo sai che infine non ci hanno mai amati. Frate pompati nelle casse questa denuncia, così forte che il vigile alla multa non rinuncia. Tiriamo fuori le mani, tiriamo fuori i pensieri. Facciamo la rivolta, mandiamo a casa i finti veritieri. Rappo per i miei fratelli che si alzano alle 6. Rappo per i miei che per me si fanno in 6. Rappo per il futuro ma davanti ho le mura. A sto pezzo non lo fermo, manco una censura. Ciò che dico io lo penso, canto perché sennò mi stresso. Sta merda, sta zitto, quella minorenne ci fa sesso. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Mi dicevano sempre tu alza la testa, ma ero io sballato sempre ad ogni festa. Mi dicevano spesso devi sempre studiare, ma qui vincono i soldi e sono andato a lavorare. A volte sono triste e ho il morale giù. Loro non fanno un cazzo e poi girano in auto blu. Ho sempre la tasca vuota e l'oro sempre piena, ma ho dignità a palla e loro merda in vena. Siamo senza soldi, senza il loro rispetto. Ci bruciano i sogni e paghiamo il nostro tetto. Stiamo in un paese senza sopravvivenza. Vivete di leggi, tutto è fatto a convenienza. Questo pezzo è protesta e voi fate festa. Sto pezzo racconta verità e tu ficcalo in testa. Sto pezzo che esprime tutte le mie rime. Tra tutti questo stato che più mi deprime. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere. Tu non sai cosa ti può succedere da solo. Stato infame, non ti scogli, non ti credere. Tu non sai chi vuoi far ricredere. Ci ruba nei sogni il cash ma non demordere.